Ragazzi, v'annunzio Jake Wallace, il cantastorie del campo. La mia mamma, che farà se io non moro? Se io non moro? Thank you. per la canzia, mandatemi via, mandatemi via, son malato, non so di che, mandatemi via, mandatemi via, son rovinato, son stanco di piccone di miniera, voglio l'altro, voglio l'altro. Sua carta. Sopra un cuore come si porta un fiore, non toccherà più carte. E questo è il segno, se s'attardassi a togliere ogni piccato. Domani al campo tu spargi la voce. No! Ragazzi, siete buoni! Dato, vale, vieni qua, via, dato, via! Un poker! Nick, gettoni! E il fuoco! Ragazzi, fate largo, salute! A Mr. Ashby dell'agenzia Wells Fargo. Nick, portami da bere. Come sta la ragazza? Grazie, bene. Grazie, bene. Che nuova del bandito? Da tre mesi l'ha posto, non è molto riscosto. Con che ruba come un gran signore, le spagnuolo, la banda di ladri a cui comanda e messicana, che faccia gagliarda sputa pronta a tutto, state in guardia, io mi sdraio, sono stanco. Oh, la salute! tutti buona notte. Cosa c'è? Offrimi. Mrs. Rance, fra poco, no, faccia di cinese, e ne si vede tutto di ferrazzo, e ne si vede ora, mi compagnisco, mi compagni, e sono i tempi, e sono se mai vedo, intende, perché non curi le offese degli ubriachi, e capisco che vieni di volta, e volta molto bande in giro. pazzia, tiene l'orca dentro, ma l'agenzia starebbe molto meglio. Miguel Torena. Stanotte vada alle palme. Quella Miguel Torrena è una canaglia. Aspi non vi fidate. Vedete di donne innamorate. Ad ogni modo ranz, tengo l'invito. Perfine papagallo siamo lì. Scusa, mi ci sposerà di tutti. E poi niente, quanto non avessi sul cielo. Don't son messo in cammino. A tratto sol dal fascino dell'oro, e questo il sole non m'ha ingannato. Giocare, il vostro nome è Thank you. caricato il mestiere del pentone. L'hanno appeso a bere e son morto. Figlio di cane, mostraci la tua lumina faccia. Tu sei con Ramirez. Un fuggito lo diamo, se volete vi porto sulla sua traccia. Questo sudicio ladro ci canna. No, non vi inganno. Conosci il nascondiglio? È poco più d'un miglio alla Madrona Cagnara. Vi mostrerò la strada in nome di mia madre, Maria Saltata. Giuro che non vi inganno. Se volete vi porto. Li pianterò nel dorso la mia navata! Si va! E hanno volato, avremo la tormenta! Legata! E buon colpo! Si tenta! A cavallo! A cavallo! Non è preso, e nel ballo! Dove si va? Dove si va? Si insegue la Lines! Bastano a guardare che va al guardiente. Mi sono lasciato prendere per sfiarli, mi seguono nel bosco i nostri. Resto adrede un fischio, se c'è il colpo col fischio rispondete. Quest'uomo sa la traccia di Ramirez. Ora via! Thank you. neppure io quelle che sono. Oh, farò. Non m'aspettate molto, non che credo come fuori dentro. Que vi